i campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 novembre, il sole in regione sorto alle 7.22, tramonterà alle 16.26. Domani c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. La produzione ortofrutticola nell'anno più caldo di sempre, una serie di variabili che poi incidono sul caro prezzi. Le cantine delle vecchie case contadine, tra profumi e misteri nella storia che ci racconta Angelo Floramo. Il sorbo degli uccellatori non funziona più, oggi la smentita che le nuove varietà non piacciono più agli uccelli. Per proclamare la bontà dei tappi a vite, anche per le bottiglie di vino più prestigiose, si è costituito il Club degli Svitati. Tra i partecipanti anche un vignaiolo nostrano. Nulla di più apprezzato a Natale di un vasetto di alimenti conservati fatti in casa. Due soluzioni per i soliti ritardatari. Non è facile districarsi tra le mille proposte di mercato degli ibridatori floricoli. Oggi il caso dei ciclamini. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. A previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Da poco si è chiusa l'annata agraria ed è tempo di bilanci. Per l'ortofrutta è stato un anno a dir poco anomalo, non solo per la produzione casalinga, ma anche per le quotazioni che l'ortofrutta ha raggiunto sui mercati. Per capire cosa sta succedendo abbiamo in studio Costantino Cattivello dell'ERSA. Nelle interviste precedenti delle passate settimane ci ha illustrato quali accorgimenti dobbiamo adottare per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle coltivazioni casalinghe. Che riflessi ha sulla produzione delle piante questo? I riflessi sono pesanti. Forse non tutti sanno che negli ultimi anni la produttività delle principali specie ortofrutticole sta gradualmente diminuendo. Non lo dico io, ma il dottor Vaccari, che è il direttore del CREA, una rete di istituti del Ministero dell'Agricoltura italiano che si occupa di ricerche in ambito agrario. Ed è questa la causa dell'aumento vertiginoso dei costi dell'ortofrutta? Il cambiamento climatico è una delle cause, ma non è la sola. Quest'anno, ad esempio, in Italia, Spagna e Francia, a seguito di una primavera particolarmente piovosa, le semine hanno interessato superfici inferiori, con varietà più tardive e meno produttive. Inoltre, le piante sono state attaccate con maggiore virulenza da parassiti, con perdite chiaramente di prodotto consistenti. Anche le nostre produzioni tradizionali ne hanno risentito. Se pensiamo all'asparago, la produttività di questa orticola ha fatto segnare decrementi a due cifre, non compensati da un miglioramento della qualità. A questa primavera difficile poi è seguita un'estate calda e grandinigena per passare ad un autunno con temperature elevate che stanno incidendo negativamente sulla qualità di cavoli e radicchi. Questi ultimi, a causa delle alte temperature, stanno ritardando la chiusura dei cespi e il fogliame non solo non ha preso la tipica colorazione, ma presenta ancora spiccate note amare. Ma allora andrebbe meglio coltivare varietà locali? Va detto che i cambiamenti climatici sono così repentini che le piante si trovano in qualche modo impreparate. I meccanismi di adattamento si realizzano in un lungo arco di tempo. Tuttavia le varietà locali, essendosi evolute in questo ambiente, hanno qualche carta in più da giocare. Pensiamo ad esempio al sedano rappa, un'icona della produzione regionale, che è un unicum anche a livello nazionale. Bene, questa varietà, selezionata nel tempo da una famiglia di orticoltori in quel di Godia, è decisamente più rustica degli ibridi esteri coltivati nei nostri territori. A differenza delle varietà estere, infatti, presenta un fogliame ben sviluppato e sano anche ad autunno inoltrato, una radice di buone dimensioni e dal caratteristico aroma. E ci sono anche altre cause su questa impennata dei prezzi? Va detto che la forbice tra quanto pagato all'agricoltore e il costo di acquisto dell'ortofrutta da parte del consumatore finale si è tremendamente allargata. Vediamo brevemente le cause. Direi innanzitutto la prima causa sono gli scarsi margini di guadagno. Infatti la presenza di una spiccata aleatorietà delle condizioni climatiche, l'aumento dei costi di produzione e la forte pressione parassitaria hanno indotto molti imprenditori a gettare la spugna. Tipico il caso del pomodoro da salsa, una produzione importante del parmense e del foggiano ed icona dell'agroalimentare italiano. Non meno importante poi il costo energetico, che da sempre è una voce importante per le produzioni in serra, ma che incide anche sul costo delle lavorazioni e dei concimi. Per contenere i costi di riscaldamento è stato necessario posticipare i trapianti, riducendo così la durata della stagione produttiva e la produzione, dal momento che in piena estate, sotto i tunnel, il fattore limitante è rappresentato dalle alte temperature, spesso superiori ai 45-50 gradi. Altro aspetto lamentato è la carenza di manodopera, che è un problema che accomuna quasi tutte le aziende ortofrutticole. Spesso anche imprenditori agricoli locali che effettuano la vendita diretta, che è il canale di commercializzazione più diffuso in regione, mi hanno confessato di essere stati costretti a ridurre le superfici e le produzioni per gestire in tutto o in parte con manodopera familiare. Infine, l'incertezza derivante dalle ricorrenti crisi internazionali, con i conseguenti riflessi poi sulla difficoltà di approvvigionamento dei fattori produttivi, ha ridotto o ritardato la messa a coltura di diverse orticole. La storia di Angelo Floramo oggi ci porta nelle vecchie cantine delle case di campagna, tra profumi e aloni di mistero. Ma dove sono finite le cantine di una volta? Quel luogo avvolto da una perenne penombra, facile gioco di suggestioni infantili, che paura scendervi, illuminato da una lampadina resa più fioca dalla polvere in cui si trovava inguantata che dalla debolezza del suo voltaggio. Cancellate dalla vigente normativa in merito alla sicurezza, ovviamente, ispirata da sani principi, non c'è dubbio, ma talvolta foriera anche di esagerazioni, come ad esempio il dover piastrellare le pareti delle caserme di montagna, tanto per dirne una. Tant'è, luoghi del genere non esistono più, se non nella memoria o in qualche resistenziale presidio di civiltà, ben nascoste dagli occhi vigili dei controllori. Vi si accedeva da scale grezze, scavate nella pietra. Si trattava per lo più di seminterrati con qualche piccola feritoia, aperta ad arte e con una certa parsimonia, secondo i dettami di una sapienza antica che suggeriva di arieggiare i locali per tenere lontana l'umidità. Là sotto tutto era soggetto ad una condizione perenne di incompiutezza e di precarietà, nonché di lenta ma inesorabile trasformazione. Un continuo lavorio, dalle spatolate di malta sulle pareti alla sistemazione del pavimento, che se proprio non era in terra battuta, poteva vantare un piano di calpestio rivestito da ciottoli grossi di fiume. Laddove mancava la luce, era l'odore capace di indirizzare il passo di chi vi si fosse avventurato a proprio rischio e pericolo. Il mosto, che da qualche giorno, visto il calendario di novembre, si era evoluto in qualcos'altro, impregnava di sé i volumi e gli arredi spartani. Il resto lo facevano i tini, le botti e le damigiane. Per quanto cauto fosse il rito della spinatura, era facile che qualche sbocco ruscellasse per terra prima di gorgogliare dentro al bottiglione. Nelle case contadine il vino era quello nostrano, spremuto dai grappoli del filare dietro casa, quel clinton o quel bacò che avrebbero accompagnato il poco che si metteva in tavola, profumandolo di un acidulo legnoso capace di stemperare il pericolo dell'ebbrezza più per dissuasione che per contegno. Nel lungo inverno contadino ci poteva anche stare la tinozza in cui le rape fermentavano in rutti di brovada. In tal caso le sensazioni olfattive si facevano più dense, quasi tattili. Talvolta una porta conduceva al camarin dal cui soffitto basso pendeva qualche golosità. Alle mensole, conserve e confetture, o il miele, come se l'idea stessa della dolcezza potesse impastare, almeno un po', l'amaro del vivere. Qualcuno afferma che le nuove varietà dei sorbi degli uccellatori non piacciono più agli uccelli. Non risulta però il professor Raffaele Testolin, che argomenta in questa scheda. Il sorbo degli uccellatori è una bacca prelibata per molti uccelli di passo. È noto ai cacciatori e alla razza ormai scomparsa degli uccellatori che gli uccelli di passo, tordi, sasselli, merli, cesene, tuttora oggetto di caccia, ma anche gli uccelletti dal becco gentile, la cui caccia è proibita, vanno amati per questo frutto, tant'è che la pianta si trova ancora nelle bressane, ormai in disuso. L'albero è molto elegante e fa bella mostra di sé in montagna, dato che si trova meglio lì al fresco che in pianura. La notizia che il sorbo degli uccellatori non è più appetito dagli uccelli mi ha spiazzato e sono andato a documentarmi. Ebbene, la ricerca è stata frustrante e non ho trovato traccia di questo problema, a parte qualche informazione sul fatto che alcune varietà interessanti dal punto di vista ornamentale sarebbero poco appetite dagli uccelli. Ma ve la vendo come l'ho letta. In compenso, ho scoperto che nella cultura popolare friulana, ma non solo friulana, le bacche essiccate sono un repellente per le streghe e un antidoto a malefici e incantesimi. Avverto una certa diffidenza in chi mi ascolta e allora ecco una ricetta più moderna e accattivante. Udite! Le bacche del sorbo degli uccellatori sono un potente anti-aging contro il procedere dell'età. La polpa di una decina di bacche mature e un cucchiaio di farina di semi di lino, mescolate fino ad ottenere una crema. Applicate sul viso, lasciate agire una ventina di minuti e risciacquate con acqua tiepida. Dopo alcune applicazioni vi troverete con una pelle liscia e giovanile. Altro che acido ialuronico. Sono andato certamente fuori tema, ma tornando al problema se gli uccelli lo mangiano o no, io gli uccelli sul sorbo del mio amico mondo continuo a vederli. Nelle scorse puntate, per la rubrica dei sommelier che ci cura Vladimiro Tulisso, avevamo parlato dei tappi in sughero, vizi e proprietà, e poi avevamo introdotto il tema anche del tappo a vite, che sta sempre più prendendo piede anche da noi. Oggi parliamo di un club particolarissimo che promuove questo tappo a vite, il club degli svitati, che c'è anche un friulano tra loro. La sfida del tappo a vite ha bisogno anche di idee originali. Promuovere un metodo alternativo di chiusura delle bottiglie che non preveda l'utilizzo del tappo in sughero ha trovato in Friuli un testimonial di eccezione. Il vignaiolo Silvio Jerman, il tappo in metallo chiude il 50% della produzione nell'azienda che porta il suo nome, ha infatti contribuito la scorsa estate a dar vita a un club di fan del tappo a vite che si è simpaticamente attribuito il nome di Gli Svitati. Le aziende Franz Haas, Pra, Jerman, Poyer e Sandri e Vigneti Massa si sono unite per condividere la loro esperienza di tappatura. L'hanno fatto documentando la scelta con una serie di risultati di laboratorio che hanno dimostrato una permeabilità all'ossigeno dei tappi in metallo molto più bassa e controllabile a seconda del rivestimento utilizzato all'interno del contenitore, confermando così la possibilità di inserire una minor quantità di solforosa nel vino, rendendolo più salubre. Inoltre, a distanza di anni, le bottiglie con tappo a vite permettono al liquido di conservare un colore brillante e caratteristiche di profumo e sapore ideali sia per i rossi che per i bianchi. Quindi un ottimo sistema di tappatura. Silvio Jerman, precursore del tappo a vite in Italia, ha ricordato come abbia iniziato circa 20 anni fa, utilizzando un tappatore manuale poiché le macchine imbottigliatrici allora erano poco adatte alle produzioni di piccole cantine. Nel 2007 ha poi acquistato una imbottigliatrice dedicata unicamente al tappo a vite, nonostante all'epoca il mercato fosse piuttosto scettico, come del resto lo è tuttora. La scelta è stata quella di eliminare il sughero dalle produzioni più importanti. Ha detto Jerman: «Ho deciso questo per non rovinare il lavoro svolto in vigna e in cantina, aggiungendo qualcosa che non fosse di nostra produzione, il sughero appunto». Per Jerman il tappo a vite assicura una chiusura neutra che non altera l'evoluzione del vino e ne garantisce la qualità. Chi è previdente ha già in dispensa i vasetti con preparati conservati che torneranno utili per i regali di Natale. Oggi Michela Urbano, per i ritardatari, offre due facili ricette. Con oggi possiamo dichiarare ufficialmente di essere entrati nel vortice delle festività natalizie. Meno di un mese, le danze abbiano inizio. Prepariamoci a mettere per iscritto lunghe liste di impegni, cene e regali da preparare nei prossimi giorni. Tanto vale organizzarci per tempo e confezionare, laddove possibile, prelibatezze culinarie personalizzate originali pensate a soddisfare il gusto di chi riceverà il dono. Probabilmente a qualcuno dei nostri affezionati ascoltatori basterà aprire le ante della dispensa e infiocchettare una serie di vasetti e bottiglie accantonate per l'occasione durante i vari mesi dell'anno. Per chi non fosse stato così previdente, non abbia preoccupazione alcuna. Ho un paio di suggerimenti da darvi, oggi nei prossimi appuntamenti, che ben conservati vi giocheranno a favore. Ma attenzione, la qualità degli ingredienti è fondamentale, soprattutto per la frutta secca, altrimenti ad irancidirsi non sarà soltanto il sapore, ma anche l'umore. Ricordiamoci di preparare con cura i vasetti entro i quali sistemare le varie leccornie, giocando con forme e volumi. Utilizziamoli solo dopo averli lavati e asciugati con cura. Scegliamo un assortimento ben coordinato di nastri, piccoli addobbi ed etichette da compilare accuratamente. Ora mettiamoci all'opera. Preparato per cioccolata calda in tazza. In una terrina capiente setacciate 160 g di cacao amaro, 30 g di fecola di patate e 30 g di amido di mais. Unite 300 g di zucchero semolato e 120 g di cioccolato fondente al 65%. Con una frusta mescolate con cura. Otterrete così 640 g di preparato per cioccolata istantanea. Suddividete nei vasetti tenendo conto che per ogni tazza occorreranno 50 g di mix su 200 ml di latte da portare a lenta ebollizione fino al raggiungimento della densità desiderata. Allegate un bigliettino dove scriverete il dosaggio consigliato e un messaggio di auguri. Prima di salutarvi ho un'altra veloce ma alquanto gustosa leccornia da consigliarvi. Attenzione però, crea dipendenza. Nocciole croccanti al miele e rosmarino. Tostate nel forno 200 g di nocciole pelate e fate raffreddare. In un tegame sciogliete 3 cucchiai di miele dal sapore delicato, unite le nocciole e tagliuzzate sottile del rosmarino, senza esagerare, non è un arrosto. Mescolando con un cucchiaio lasciate caramellare. Trasferite le nocciole caramellate su della carta da forno, cospargetele con pochissimo fleur de sel e fate raffreddare distanziate. Invasate a piacere, se ben conservate dureranno fino a Natale. Il mestiere del floricoltore è sempre più complesso per districarsi tra le mille lusinghe del mercato degli ibridatori. Oggi Alessandro Squizzato ci racconta dei ciclamini. Recarsi ad acquistare un fiore o una pianta rappresenta un momento di tranquillità e cura per noi stessi. Molti studi affermano che acquistare e allevare delle piante sia un toccasana per la salute. Pensiamo ad esempio come alcune piante verdi da interno siano addirittura capaci di migliorare la qualità dell'aria della nostra abitazione. I colori accesi di un ciclamino suscitano gioia, i profumi delle piante aromatiche portano spensieratezza e, perché no, anche voglia di cucinare e sperimentare. Detto ciò, oggi vorrei parlarvi del duro e incerto lavoro di programmazione che ogni floricoltore deve compiere quando decide di iniziare una campagna di coltivazione. Il carattere di incertezza deriva in primis dalla moltitudine di aspetti da considerare e non sottovalutare. Prendiamo ad esempio i ciclamini, fiori per eccellenza dell'autunno, che con i loro colori forti sono capaci di illuminare le giornate più cupe. La scorsa settimana mi sono recato all'estero, in alcune delle aziende ibridatrici di ciclamini più importanti al mondo. Dopo delle brevi visite alle aziende, mi hanno portato a vedere le varie novità che entreranno nel mercato nei prossimi anni. Beh, devo dire che novità non mancheranno e che vedere quelle piante mi ha entusiasmato e caricato molto. Credo che nei prossimi anni più di qualcuno di voi si porterà a casa questi nuovi ciclamini particolari. Sapevate che per ottenere una nuova varietà di ciclamino da inserire nei cataloghi ci vogliono circa 8 anni? Incredibile! Ma passiamo al floricoltore che, dal seme che arriva da queste grosse aziende, deve far crescere e portare a fioritura il ciclamino. Dal seme, che non sempre germoglia. All'inizio della fioritura ci vogliono dalle 25 settimane per i ciclamini più piccoli alle 35 settimane per i ciclamini più grandi. In sostanza, per vendere un ciclamino a settembre, il seme va piantato dai 6 agli 8 mesi prima e quindi a gennaio-febbraio. Aggiungiamoci la programmazione e arriviamo a 10 mesi. Un floricoltore che vuole coltivare e vendere i ciclamini deve affidarsi un po' allo storico delle vendite e alla fortuna, perché coltivazioni così lunghe sono difficili da prevedere. Le varianti sono molte: il troppo caldo, periodi di pioggia, la richiesta e il gusto del mercato e della clientela. Un coltivatore di fiori lavora costantemente proiettato al futuro, con la speranza che la nascita delle piante, la loro coltivazione, le vendite e la soddisfazione del cliente finale siano sempre ai massimi livelli. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Campo di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 21 e 30 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 20 e 30 20 e 80, l'orzo peso specifico 62-65 tra 19,50 e 20 euro e la soia tra 44,50 e 45 euro al quintale. Scarse le contrattazioni all'altro forticolo di Udine, con prezzi leggermente in rialzo. L'insalata gentile viene quotata da 2 a 2,40 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero tra 2 e 2,30, i finocchi tra 1,80 e 2 euro, gli spinaci da 2,40 a 2,60, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,50 a 1,80, i kiwi da 2 a 3 euro, le arance da 1,30 a 2 euro, le clementine italiane da 1,80. Nel comparto caseario, la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, in leggera ripresa il settore degli avicunicoli, con prezzi in salita. Il valore dei poli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, i conigli oltre 2 kg e mezzo da 3,14 a 3,20, le uova oltre 73 grammi provenienti direttamente a terra sono a 20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Novembre si è presentato molto ricco di pioggia nella prima decade, poi invece le precipitazioni sono state quasi completamente assenti e le temperature medie fino ad oggi, pur con delle oscillazioni, sono state intorno alla norma. Ieri, soprattutto in quota, sono affluite correnti settentrionali piuttosto fredde e secche, che provocheranno, fra oggi e domani, le prime gelate estese notturne su tutta la zona montana e anche in pianura. Domani, l'avvicinamento di un moderato fronte atlantico provocherà un progressivo aumento della nuvolosità e in serata saranno probabili delle piogge sparse, in genere deboli, su pianura e costa. Qualche nevicata, debole, in montagna, oltre i 600-800 metri di quota circa. Martedì, nella notte e nelle prime ore del mattino, continueranno le deboli precipitazioni, ma già in mattinata il fronte lascerà la regione, con un miglioramento a partire dalla Carnia. Mercoledì tempo abbastanza stabile, possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura e cielo in genere poco nuvoloso o variabile, temperature in lieve calo. Giovedì è previsto l'avvicinamento di una marcata depressione atlantica, che dal pomeriggio e poi fino a tutto venerdì porterà piogge abbondanti su pianura e costa, e nevicate anche abbondanti in montagna, inizialmente a quote abbastanza basse fra i 500 e 700 metri circa. Poi, con l'aumento delle temperature, le nevicate saranno in lieve rialzo, oltre i 1000-1200 metri. Sabato, in un contesto ancora depressionario, al momento la probabilità di precipitazione appare più bassa, ma è decisamente opportuno seguire quotidianamente gli aggiornamenti delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. D'un viar, l'un fiar, ovvero d'inverno, l'inferno, proverbio tipico di Ponteba, dove certamente i rigori dell'inverno si facevano sentire. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.